Esteban si diresse verso la casa, aprì la porta con una spinta ed entrò. Dentro c'era abbastanza luce perché la mattina entrava dalle imposte rotte e dai fori del tetto dove le tegole avevano ceduto. Era pieno di polvere e di ragnatele, con un'aria di abbandono completo, ed era evidente che in quegli anni nessuno dei contadini aveva osato lasciare la sua baracca per sistemarsi nella grande casa padronale vuota. Non avevano toccato i mobili, che erano gli stessi della sua infanzia, negli stessi posti di sempre, però più brutti, lugubri e sgangherati di quanto potesse ricordare. Tutta la casa era tappezzata da uno strato d'erba, di polvere e di foglie secche. Puzzava di tomba. Un cane scheletrito gli abbaiò furiosamente contro, ma Esteban Trueba non gli badò e infine il cane, stanco, si gettò in un angolo a grattarsi le pulci. Lasciò le sue valigie sopra un tavolo e andò in giro per la casa lottando contro la tristezza che cominciava a invaderlo. Passò da una stanza all'altra, vide il deterioramento che il tempo aveva causato in ogni cosa, la povertà, il sudiciume, e sentì che quello era un buco assai peggiore di quello della miniera. La cucina era un ampio locale lercio, dal tetto alto e dalle pareti annerite dal fumo della legna e del carbone, ammuffita, cadente. Pendevano ancora da alcuni chiodi alle pareti le casseruole e le padelle di rame e di ferro che non erano state usate per 15 anni e che nessuno aveva toccato in tutto quel tempo. Le camere avevano gli stessi letti e gli stessi armadi con specchi comprati da suo padre in altri tempi, ma i materassi erano un mucchio di lana marcia e i vermi vi avevano fatto il nido per generazioni. Ascoltò lo zampettare discreto dei topi nei cassoni del tetto. Non riuscì a scoprire se il pavimento era di legno o di piastrelle perché in nessun punto era visibile e il sudiciume lo copriva tutto. Lo strato grigio della polvere cancellava il contorno dei mobili in quello che era stato il salotto. Si vedeva ancora il piano tedesco con una gamba rotta e i tasti gialli che suonava come un clavicembalo stonato. Sul palchetto erano rimasti alcuni libri illeggibili, con le pagine mangiate dall'umidità e in terra resti di riviste molto vecchie che il vento aveva sparpagliato. Le poltrone avevano le molle allo scoperto e c'era un nido di topi nella poltrona dove sua madre sedeva a lavorare a maglia prima che la malattia le riducesse le mani come uncini. Quando ebbe finito il suo giro, Esteban aveva le idee più chiare. Sapeva di avere davanti a sé un lavoro titanico perché se la casa si trovava in quello stato di abbandono non poteva sperare che il resto della proprietà fosse in migliori condizioni. Per un istante ebbe la tentazione di caricare le sue due valigie sul carretto e di tornarsene da dove era venuto, ma cancellò quel pensiero con un colpo di spugna e decise che se c'era qualcosa che poteva calmare la pena e la rabbia di aver perso Rosa era proprio rompersi la schiena su quella terra in rovina. Si tolse il cappotto, respirò profondamente e uscì nel cortile dove c'era ancora il legnaiolo insieme ai contadini riuniti a una certa distanza con la riservatezza propria della gente di campagna. Si osservarono l'un l'altro con curiosità. Trueba fece alcuni passi verso di loro e percepì nel gruppo un lieve movimento all'indietro. Fece correre lo sguardo sui cenciosi campagnoli e cercò di abbozzare un sorriso amichevole ai bambini sporchi di moccio, ai vecchi cisposi e alle donne senza speranza, ma gli venne fuori come una smorfia. «Dove sono gli uomini?» domandò. L'unico uomo giovane fece un passo avanti. Probabilmente aveva la stessa età di Esteban Trueba, ma sembrava più vecchio. «Se ne sono andati», disse. «Come ti chiami?» Pedro II García, signore, rispose l'altro. Sono io il padrone adesso. È finita la festa. Dobbiamo lavorare. A chi non garba l'idea se ne vada subito. A chi rimane non mancherà da mangiare, ma dovrà sgobbare. Non voglio gente fiacca, neppure insolente. Mi avete sentito? Si guardarono sorpresi. Non avevano capito nemmeno la metà del discorso, ma sapevano riconoscere la voce del padrone quando la udivano. Abbiamo sentito, padrone, disse Pedro II García. Non sappiamo dove andare, siamo sempre vissuti qui, ci restiamo. Un bambino si accovacciò e si mise a fare la cacca e un cane rognoso si avvicinò ad annusarlo. Esteban, schifato, diede ordine di portare via il bambino, lavare il cortile e ammazzare il cane. E così cominciò la nuova vita che col tempo gli avrebbe fatto dimenticare Rosa. Nessuno mi leverà dalla testa l'idea che sono stato un buon padrone. Chiunque avesse visto le Tre Marie ai tempi dell'abbandono e le vedesse ora che è un'azienda modello dovrebbe essere d'accordo con me. Per questo non posso tollerare che mia nipote venga a parlarmi della lotta di classe, perché se stiamo ai fatti, quei poveri contadini stanno molto peggio adesso che non 50 anni fa. Ero come un padre per loro. Con la riforma agraria siamo stati fottuti. Per togliere le Tre Marie dalla miseria avevo investito tutto il capitale risparmiato per sposarmi con Rosa e tutto quello che mi mandava il capocantiere dalla miniera, ma non è stato il denaro a salvare quella terra, bensì il lavoro e l'organizzazione. Corse la voce che alle Tre Marie c'era un nuovo padrone e che stavamo togliendo le pietre con buoi e arando i campi per seminare. E immediatamente cominciarono ad arrivare uomini a offrirsi come braccianti, perché io li pagavo bene, davo loro pasti abbondanti, comprai animali e gli animali erano sacri per me, e benché dovessimo passare un anno senza assaggiare carne, non venivano uccisi. Così crebbe l'allevamento. Organizzai gli uomini in squadre e dopo aver lavorato nei campi ci mettemmo a ricostruire la casa padronale. Non erano falegnami né muratori. Ho dovuto insegnar loro io ogni cosa con l'aiuto di qualche manuale che avevo comprato. Con questo aiuto riuscimmo a fare persino il lavoro da idraulico. Aggiustammo i tetti, dipingemmo tutto a calce, ripulimmo fino a rendere la casa splendente dentro e fuori. Distribuii i mobili tra gli operai, tranne il tavolo della sala da pranzo che era ancora indenne nonostante le tarme avessero infettato tutto e il letto di ferro forgiato a mano che era stato dei miei genitori. Rimasi a vivere nella casa vuota, senza altri mobili che quelle due cose e alcune casse sulle quali mi sedevo finché Ferula non mi mandò dalla capitale i mobili nuovi che le avevo ordinato. Erano mobili grossi, pesanti, pomposi, adatti a resistere per molte generazioni e consoni alla vita della campagna. Prova ne sia che ci volle un terremoto per distruggerli. Li sistemai contro le pareti, pensando alla praticità e non all'estetica. E una volta che la casa fu confortevole, cominciai ad abituarmi all'idea che avrei trascorso molti anni, forse tutta la vita, alle Tre Marie. Le donne dei mezzadri si davano il turno per servire nella casa padronale e si occupavano del mio orto. Presto vidi i primi fiori nel giardino che avevo tracciato con le mie stesse mani e che con pochissime modifiche è lo stesso che c'è oggi. A quell'epoca la gente lavorava senza fiatare. Credo che la mia presenza avesse restituito loro la sicurezza e videro che a poco quella terra si trasformava in un luogo rigoglioso. Era gente buona e semplice, non c'erano ribelli. C'è anche da dire che erano molto poveri e ignoranti. Prima che io fossi arrivato, si limitavano a coltivare i loro piccoli poderi familiari che producevano l'indispensabile perché non morissero di fame, sempre che non fossero colpiti da qualche catastrofe come siccità, gelata, grandine, formiche o lumache. Allora le cose si mettevano molto male per loro. Con me tutto questo cambiò. Recuperammo i terreni a uno, ricostruimmo il pollaio e le stalle e cominciammo a tracciare un sistema di irrigazione affinché le semine non dipendessero dal clima, ma piuttosto da qualche meccanismo scientifico. Però la vita non era facile, era molto dura. Talvolta io andavo in paese e tornavo con un veterinario che controllava le vacche, le galline e al tempo stesso dava un'occhiata ai malati. Non è detto che io condividessi il principio che se le conoscenze del veterinario erano sufficienti per gli animali, potevano servire anche per i poveri, come dice mia nipote quando vuol far imbestialire. Il fatto è che non si trovavano medici in quelle terre sperdute. I contadini consultavano una donna medicina indigena che conosceva il potere delle erbe e della suggestione, ma nella quale avevano una grande fiducia, molto più che nel veterinario. Le partorienti davano alla luce i figli con l'aiuto delle vicine, della preghiera e della levatrice, che non arrivava quasi mai in tempo perché doveva fare il viaggio su un asino, ma che serviva sia per far nascere un bambino, sia per tirar fuori da una vacca un vitello podalico. I malati gravi quelli che negli incantesimi della donna medicina, nelle pozioni del veterinario potevano guarire, venivano portati su un carretto da Pedro II Garcia o da me all'ospedale delle monache, dove talvolta c'era qualche medico di turno che li aiutava a morire. I morti andavano a riposare le loro ossa in un piccolo cimitero vicino alla parrocchia abbandonata, ai piedi del vulcano, dove ora c'è un cimitero come Dio comanda. Una o due volte all'anno trovavo un sacerdote che veniva a benedire le unioni, gli animali e le macchine, a battezzare i bambini e a dire qualche preghiera in ritardo per i defunti. Gli unici diversivi erano castrare i maiali e i tori, le lotte dei galli, il gioco del mondo e le incredibili storie di Pedro Garcia, il vecchio, che riposi in pace. Era il padre di Pedro II. E diceva che suo nonno aveva combattuto nelle file dei patrioti che avevano scacciato gli spagnoli dall'America. Insegnava ai bambini a lasciarsi pungere dai ragni e a bere orina di donna gravida per immunizzarsi. Conosceva tante erbe quasi quanto le donne medicina, ma si confondeva al momento di decidere della loro applicazione e commetteva qualche errore irreparabile. Per togliere i molari, tuttavia, riconosco che aveva un sistema insuperabile, che gli aveva procurato giusta fama in tutta la zona. Era una mistura di vino rosso e di Padre Nostri che faceva sprofondare il paziente in una trance ipnotica. A me aveva tolto un molare senza farmi male e se fosse vivo sarebbe il mio dentista. Ben presto cominciai a sentirmi a mio agio in campagna. I miei vicini più prossimi stavano a una buona distanza a dorso di cavallo, ma a me non interessava la vita sociale. Mi piaceva la solitudine, inoltre avevo molto lavoro per le mie mani. Stavo trasformandomi in un selvaggio. Dimenticavo le parole, mi si era ridotto il vocabolario, ero diventato molto autoritario. Siccome non avevo bisogno di far bella figura davanti a nessuno, beh, mi si era accentuato il cattivo carattere che avevo sempre avuto. Tutto mi irritava. Mi arrabbiavo se vedevo i bambini girare nelle cucine per rubare il pane, se le galline schiamazzavano in cortile, se i passeri invadevano i campi di grano turco. Quando il cattivo umore cominciava a darmi fastidio e mi sentivo a disagio nella mia stessa pelle, andavo a caccia. Mi alzavo molto prima dell'alba e partivo con un fucile in spalla, il mio tascapane e il mio bracco. Mi piacevano le cavalcate al buio, il freddo dell'alba, i lunghi appostamenti nell'ombra, il silenzio, l'odore della polvere da sparo e del sangue. Sentire l'arma rinculare con un colpo secco contro l'omero e vedere la preda cadere scuotendo le zampe. Tutto questo mi tranquillizzava. E quando tornavo da una partita di caccia con quattro miserabili conigli nel tascapane e qualche pernice così sforacchiata che non serviva per essere cucinata, mezzo morto di fatica e pieno di fango, mi sentivo sollevato e felice. Quando penso a quei tempi mi viene una grande tristezza. La vita mi è passata molto in fretta. Se dovessi ricominciare non farei certi errori, ma in genere non mi pento di niente. Sì, sono stato un buon padrone, su questo non ci sono dubbi. Nei primi mesi Esteban Trueba era stato così occupato a canalizzare l'acqua, a scavare pozzi, a togliere pietre, a ripulire i campi, a riparare i pollai e le stalle, che non aveva avuto il tempo di pensare a niente. Andava a letto distrutto e si alzava all'alba. Faceva una magra colazione in cucina e se ne andava a cavallo a controllare i suoi lavori nei campi, e non tornava fino al tramonto. A quell'ora faceva l'unico pasto completo della giornata, solo nella sala da pranzo della casa. Nei primi mesi aveva fatto il proponimento di farsi il bagno e cambiarsi gli indumenti ogni giorno all'ora di cena, come aveva udito dire che facevano i coloni inglesi nei lontani villaggi dell'Asia e dell'Africa, per non perdere la dignità e il prestigio. Si vestiva con i suoi abiti migliori, si radeva e metteva sul grammofono ogni sera le stesse arie delle sue opere preferite. Ma a poco si lasciò vincere dalla rusticità e accettò l'idea che non aveva la vocazione del figurino, specialmente se non c'era nessuno che potesse apprezzare il suo sforzo. Smise di radersi, si tagliava i capelli quando gli arrivavano alle spalle e continuò a fare il bagno solo perché ne aveva l'abitudine molto radicata, però si disinteressò dei suoi vestiti e dei suoi modi di fare. Si ridusse a un barbaro. Prima di dormire leggeva un po' o giocava a scacchi. Aveva sviluppato l'abilità di gareggiare con un libro senza fare imbrogli e di perdere le partite senza arrabbiarsi. Tuttavia, la stanchezza del lavoro Non era stata sufficiente a soffocare la sua natura forte e sessuale e cominciò a passare male le notti. Le coperte gli sembravano molto pesanti, le lenzuola troppo leggere, il suo cavallo gli giocava brutti scherzi e improvvisamente si trasformava in una femmina formidabile, una dura e selvaggia montagna di carne sulla quale cavalcava fino a triturarsi le ossa. I tiepidi e profumati meloni dell'orto gli parevano straordinari seni di donna e si sorprendeva a seppellire la faccia nella coperta della sua sella, cercando nell'acre odore di sudore della bestia la somiglianza con quell'aroma lontano e proibito delle sue prime prostitute. Di notte si eccitava con incubi di frutti di mare marci, di pezzi enormi di bue squartato, di sangue, di sperma, di lacrime. Si svegliava atteso, con il sesso come un pezzo di ferro tra le gambe, più furente che mai. Per trovare sollievo correva a gettarsi nudo nel fiume e si immergeva nelle acque gelide fino ad avere il fiato mozzo, ma allora gli sembrava di sentire mani invisibili che gli accarezzavano le gambe. Vinto, si lasciava galleggiare alla deriva, sentendosi abbracciare dalla corrente, baciare dai girini, fustigare dalle canne della riva. E di lì a poco il suo impellente bisogno era noto. Non si calmava né con tuffi notturni nel fiume, né con infusi di cannella, né mettendo acciarini sotto il materasso, e neppure con le manipolazioni vergognose che nel collegio rendevano pazzi i giovani e li riducevano ciechi e li facevano sprofondare nella condanna eterna. Quando cominciò a guardare con occhi concupiscenti le galline del recinto, i bambini che giocavano nudi nell'orto e perfino la pasta cruda del pane, capì che la sua virilità non si sarebbe calmata con sostituti da sagrestano. Il suo senso pratico gli suggerì che doveva trovarsi una donna e una volta presa la decisione, l'ansia che lo consumava si acquietò e la sua rabbia parve rasserenarsi. Quel giorno si svegliò sorridendo per la prima volta dopo molto tempo. Pedro García, il vecchio, lo vide avviarsi verso la stalla fischiettando e scosse la testa inquieto. Il padrone fu per tutto il giorno occupato nell'aratura di un terreno che aveva appena finito di far ripulire e che aveva destinato a una semina di grano turco. Poi se ne andò con Pedro II García ad aiutare una vacca che in quel momento stava per partorire e aveva il vitello messo di traverso. Dovette infilarle il braccio fino al gomito e girare il piccolo e aiutarlo a far uscire di testa. La vacca comunque morì, ma questo non lo mise di cattivo umore. Ordinò che nutrissero il vitello con un poppatoio. Si lavò in un catino e risalì a cavallo. Normalmente era l'ora del suo pasto, ma non aveva fame, non aveva alcuna premura perché aveva già fatto la sua scelta. Aveva visto molte volte la ragazza mentre portava appoggiato sul fianco il suo fratellino moccoloso, con un sacco sulle spalle e una giara d'acqua di pozzo sulla testa. L'aveva osservata mentre faceva il bucato, accovacciata sulle pietre piatte del fiume, con le sue gambe brune, lucide d'acqua, intenta a sfregare gli stracci scoloriti con le sue ruvide mani da contadina. Aveva le ossa grandi e un viso da indiana, con le fattezze larghe e la pelle scura. Dall'espressione gradevole e dolce, la sua grande bocca carnosa aveva ancora tutti i denti, e quando sorrideva si illuminava, ma lo faceva di rado. Possedeva la bellezza della prima giovinezza, sebbene lui potesse prevedere che si sarebbe avvizzita molto presto, come accade alle donne nate per partorire molti figli, lavorare senza tregua e seppellire i morti. Si chiamava Pancha García e aveva 15 anni. Quando Esteban Trueba era andato a cercarla, faceva già sera ed era più fresco. Percorse al passo col suo cavallo i lunghi filari di pioppi che dividevano i campi, chiedendo di lei a chi passava, finché non la vide sul sentiero che portava alla sua baracca. Camminava piegata in due sotto il peso di una fascina di sterpi per il focolare della cucina, senza scarpe e a testa bassa. La guardò dall'alto del suo cavallo e sentì immediatamente l'urgenza del desiderio che l'aveva molestato per tanti mesi. Si avvicinò al trotto fino a mettersi al suo fianco. Lei lo udì, ma continuò a camminare, senza guardarlo, secondo l'abitudine ancestrale di tutte le donne della sua stirpe, di chinare la testa davanti al maschio. Esteban si abbassò e le tolse il fardello. Lo tenne un momento sospeso in aria e poi lo scagliò con violenza sul bordo del sentiero. Afferrò con un braccio la ragazza per la cintola e la sollevò con un respiro bestiale, sistemandola davanti alla sella senza che lei opponesse alcuna resistenza. Spronò il cavallo e partirono al galoppo in direzione del fiume. Scesero senza scambiare nemmeno una parola e si fissarono negli occhi. Esteban si slacciò l'alto cinturone di cuoio e lei indietreggiò, ma lui l'afferrò con una manata. Caddero abbracciati tra le foglie degli eucalipti. Esteban non si tolse nemmeno i vestiti. La aggredì con fierezza, gettandolesi addosso senza preamboli, con una brutalità inutile. Si rese conto troppo tardi, dagli schizzi di sangue sul suo vestito, che la ragazza era vergine. Ma l'umile condizione di pancia e le impellenti esigenze del suo appetito non gli permisero di avere tanti riguardi. Pancia Garcia non si difese, non si lamentò, non chiuse gli occhi. Rimase di spalle, guardando il cielo con espressione spaventata finché non sentì l'uomo crollare con un gemito al suo fianco. Allora cominciò a piangere debolmente. Prima di lei sua madre e prima di sua madre sua nonna avevano subito lo stesso destino di Cagna. Esteban Trueba si sistemò i pantaloni, si allacciò il cinturone, l'aiutò a rimettersi in piedi e la mise a sedere in groppa al cavallo. Ripresero la via del ritorno. Lui fischiettava. Lei continuava a piangere. Prima di lasciarla alla sua baracca, il padrone la baciò sulla bocca. «Da domani voglio che tu lavori a casa mia», disse. Pancia annuì senza alzare lo sguardo. Anche sua madre e sua nonna avevano servito nella casa padronale. Quella notte Esteban Trueba dormì come un angelo, senza sognare rosa. Al mattino si sentiva pieno di energia, più grande e potente. Se ne andò nei campi canticchiando. E al suo ritorno Pancia era in cucina, affannata a rimestare il bianco mangiare in una pentola di rame. Quella notte l'aspettò con impazienza e quando si acquietarono i rumori domestici nel vecchio casamento di mattoni e cominciarono gli andirivieni notturni dei topi, avvertì la presenza della ragazza sulla soglia della porta. «Vieni, Pancia!» la chiamò. Non era un ordine, bensì una supplica. Questa volta Esteban si prese il tempo di godersela e di farla godere. La frugò tranquillamente, imparando a memoria l'odore affumicato del suo corpo e della sua biancheria lavata con la cenere e stirata col ferro a carbone. Conobbe la trama dei suoi capelli neri e lisci, della sua pelle morbida nei punti più reconditi e aspra e callosa negli altri, delle sue labbra fresche, del suo sesso sereno e del suo ventre ampio. La desiderò con calma. E la iniziò la scienza più segreta e più antica. Probabilmente fu felice quella notte e qualche altra ancora, mentre ruzzavano come due cuccioli nel grande letto di ferro forgiato a mano che era appartenuto al primo Trueba, che era già mezzo zoppo, ma poteva ancora sopportare gli assalti dell'amore. A Pancia Garcia crebbero i seni e si arrotondarono i fianchi. A Esteban Trueba migliorò per un certo tempo l'umore e cominciò a interessarsi dei suoi mezzadri. Li andò a trovare nelle loro abitazioni di miseria. Nella penombra di una delle casupole scoprì un cassone pieno di carta di giornale in cui dividevano il sonno un bambino poppante e un cane appena nato. In un'altra vide una vecchia che stava morendo da 4 anni e aveva le ossa che le spuntavano dalle spalle per le piaghe. In un cortile ebbe modo di vedere un adolescente idiota pieno di bave con una corda al collo legato a un palo che diceva cose dell'altro mondo, nudo e con un sesso da mulo che sfregava instancabilmente in terra. Si rese conto per la prima volta che la rovina peggiore non era quella della terra e degli animali, bensì quella degli abitanti delle Tre Marie, vissuti nell'abbandono dall'epoca in cui suo padre aveva perso al gioco la dote e l'eredità della madre. Decise che era tempo di portare un po' di civiltà in quell'angolo sperduto tra la cordigliera e il mare.